Idea mia per controllare il potere politico, poi questa è un po' l'idea che mi sono fatto io, però di fatto non lo so. C'è una dichiarazione su un generale, su Piazza Fontana. Pensavo. Beh, è scoppiata una bomba. All'inizio, come si sovviene, fu indagato un anarchico, Pinelli. E alla fine questo Pinelli, in un modo abbastanza strano, mai in una situazione mai chiarita, cadde, come di consueto succede a molti anarchici, dalla finestra. Successivamente fu indagato dal prete, secondo una testimonianza di un tassista che lo riconobbe. E in futuro anche Valpreda fu scagionato e si arrivò alla pista cosiddetta fascista, neofascista, però tuttora oggi, insomma, come tante cose che succedono in questo paese dall'era repubblicana fino ad oggi, non è mai stata fatta chiarezza. Successivamente a 1969 ci fu la bomba a Brescia, la strage dell'Italicus, fino a poi arrivare a Bologna, alla stazione Bologna dell'80. Insomma, ne sono successe abbastanza in quel decennio lì. E la cosa triste è che purtroppo ormai Piazza Fontana, insieme a tanti altri episodi, sono entrati a far parte dei tanti misteri italiani. Però, insomma, se io penso che se anche da un punto di vista, diciamo, legale non è stata fatta molta chiarezza, però da un punto di vista storico penso che la verità ormai è venuta a galla, ovvero di un preciso scopo reazionario da parte di alcuni membri facenti parte dello Stato di mettere paura, la cosiddetta strategia, diciamo, della tensione. Però purtroppo nessuno ha mai pagato veramente. Questa è un fatto abbastanza.